140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Cinema Apollo, Milano. Claudio Bisio, Alessandro Gassman in Non c'è più religione di Luca Miniero. In sala si ride con la multiculturalità. Bellissima storia, finalmente una storia originale, anche se Benvenuti al Nord, lui ha scritto tanti film originali, da incantesimo napoletano, cioè un grande autore. Ma il successo più grosso che abbiamo avuto insieme, ahimè, è un remake di un film francese, il famoso Benvenuti al Sud. Invece questa volta, io l'ho già detto, lo ridico, so che Radio 24 è ascoltata molto anche in Francia, per cui inviterei questa volta i francesi a fare un remake del nostro Non c'è più religione, perché veramente è una storia originale fortissima, come dicevi tu, quando mi ha fatto, cioè è un soggetto che in poche righe dice tutto, capisci tutto, e conoscendo Luca Miniero e la sua capacità di giocare con i pregiudizi, i luoghi comuni, vedi Benvenuti al Sud e al Nord e anche gli altri suoi film, sapevo che qui avrebbe giocato con grande ironia, con grande comicità anche, un tema che addirittura forte, per non dire, cioè, l'interreligione, le differenze culturali tra cattolici e musulmani, tra cattolici ed ebrei, cattolici e buddisti, cioè tra culture molto lontane, è un tema fortissimo e anche molto sentito, ahimè, di questi tempi in Europa. Se vi ricordate, in Benvenuti al Sud c'era la famosa bravissima Nunzia che mi diceva, la mamma di Siani, a vita mangià, che dovevo mangiare la mattina, la colazione. Qui è l'incontrario, Gassman, capo della comunità musulmana, ci impone a noi, cioè una specie di ricatto ci fa, di fare il Ramadan. Quindi come là dovevo mangiare qualsiasi cosa, qui devo digiunare. Cioè. Grazie Luca. Se mi seguite, Portobuglio rinascerà. Avremo il presepe vivente più bello da 2000 anni a questa parte. Faremo un presepe tutto nuovo, un presepe 2.0. Abbiamo un problema. Oh cazzo. Il bambinello. Oh! Ha fatto lo sviluppo. Sembra il bue. Teniamolo per la crocefissione. Però qui i bambini non ne nascono più. Facciamolo. Non guardate me. Gli amici arabi ci danno il bambino. Il bambino è vostro. A una condizione. Faremo il nananai. Non ho capito. Ma che, il Ramadan? C'è chi lo chiama così. Sti cazzi. Aldo, non dire così. Sti gran cazzi. Dai ragazzi, che un po' di dieta fa bene. Personaggio doppio, cioè sei due personaggi nello stesso personaggio, sì. Come te lo sei inventato? Beh, intanto insomma mi sono molto divertito a interpretare questo italiano convertito per amore. Mi sono preparato cercando di renderlo il più simpatico possibile, ma soprattutto il più cialtrone possibile, perché è un cialtrone che si diverte a giocare, a spaventare gli italiani, in particolare il personaggio interpretato da Claudio Bisio e la suora interpretata da Angela Finocchiaro, sui luoghi comuni che conosciamo bene, sul mondo islamico, quindi cercando di terrorizzarli su delle stupidaggini, insomma, ecco, anche per ottenere dei risultati. Cioè, c'è un sindaco italiano, appunto Bisio, che cerca di ottenere un bambinello per il suo presepe, perché gli italiani non fanno più bambini, e chiede un bambinello a noi musulmani, e dall'altra parte c'è un musulmano che cerca di ottenere dei miglioramenti per la condizione, diciamo, soprattutto della sua comunità musulmana, quindi appunto di avere anche loro dal panettiere il pane arabo, di avere un luogo dove pregare in comune con i cattolici, con i cristiani e tante altre buffe cose, insomma. Ecco, Luca Miniero ci ha posto in una piccola isola che è rappresentativa di un piccolo mondo. Sono curiosa di sapere se hai avuto delle consulenze per creare la storia, perché comunque ci sono dei particolari anche proprio relativi alle sì, religioni. Si parla di Corano, di Vangelo. Chiediamo a Luca. Sì, abbiamo avuto le consulenze sempre con loro, che abbiamo incontrato personaggi della cultura musulmana, buddista e anche cattolica, devo dire la verità. Non che noi non sappiamo le cose fondamentali del cattolicesimo, però ci siamo posti per esempio nella scena della chiesa la possibilità per esempio di organizzare la messa in un certo modo che fosse funzionale alle riprese. Per esempio, posso confessarti una cosa, è anche un film ribadisco, un film che fa ridere, una commedia, un film comico per famiglia, non c'è nessuna volgarità, bambini, chiunque, però è anche istruttivo, aggiungo. E nel film ci sono queste scene che, così esattamente, quando c'è, a un certo punto il presepe viene virato un po' alla araba, così, dove viene sostituita la grotta con una palma, sembrano delle battute, delle gag, e invece sono fonte. Quindi sappiate, voi o voi che andrete, mi auguro, a vedere il film, che tutto quello che vedete, trattato con ironia, con comicità, ma sono tutte cose vere. Sì, sì. Io mi immagino appunto le famiglie che lo vanno a vedere pensando a una commedia divertente con dei volti molto amati, ma tu cosa vorresti che si portassero a casa davvero di questo film? Mi piacerebbe che uscissero dal cinema con un po' meno paura rispetto a chi non conoscono bene appunto il mondo musulmano. Sappiamo che l'Islam ha questo terrificante problema dell'integralismo, di cui i musulmani sono prime vittime. Vorrei ricordare che sono ambasciatore dell'UNHCR, peraltro, quindi ho avuto modo di visitare quei luoghi. Sono oltre 500.000 le vittime della guerra in Siria, tanto per citare uno dei conflitti in corso, che in realtà la stragrande maggioranza dei musulmani sono brave persone e che sono le prime vittime di questo orribile fenomeno, appunto, che è l'ISIS, che ha ucciso lì e qui. Dobbiamo aiutarli a uscirne, perché non hanno tutti i mezzi per farlo da soli, e dobbiamo imparare a capire che l'accettazione, e con delle regole ben precise, chiaramente, che ancora non sono così chiare, su chi deve restare o chi deve andare via dal nostro paese, siano rispettate da noi in primis e da loro anche. Dobbiamo trovare un luogo dove parlare, dove incontrarci, e questa piccola isola lo fa in maniera molto buffa e divertente. Spero che sia di buon auspicio per il futuro. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Claudio Bisio, Alessandro Gassman e Luca Miniero. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.